Io mi chiamo Gabriele Girelli e sono il referente di Trento per Italia Unita per la Scienza, che è un'associazione a livello nazionale che raccoglie tanti volontari attivi in tutta Italia, e quello che facciamo è organizzare queste attività di divulgazione scientifica. E quest'anno abbiamo organizzato Capiamo il Pianeta, che raccoglie questa serie di eventi di divulgazione scientifica in ambito di inquinamento, organismi geneticamente modificati, eccetera, in tutta Italia. E quindi siamo Italia Unita per la Scienza. In particolare a Trento abbiamo il supporto di tre enti. Uno è il CIBIO, che è il centro per le biologie integrate dell'Università di Trento, e poi Open Wet Lab e Ragionevolmente. Queste sono due associazioni di volontariato, se volete potete anche iscrivervi o ottenere maggiori informazioni dal loro sito internet. In particolare Open Wet Lab lavora qui a Trento, lo trovate al Muse una volta a settimana, il mercoledì sera dalle 18 alle 21 circa, e si occupa di biohacking. Questo vuol dire fare esperimenti di biologia con materiali che trovate, diciamo, quotidianamente in cucina o in casa vostra. Ragionevolmente invece è un'associazione soltanto di divulgazione scientifica, quindi si occupa di preparare articoli e così via, è molto giovane, è nata circa 3 mesi fa e opera principalmente a Bolzano, quindi se qualcuno di voi è bolzanino o ha amici di Bolzano può invitarli a, diciamo, contattarli. E Open Wet Lab trovate il sito internet su www.openwetlab.org, mentre Ragionevolmente è ragionevolmente.it. Questa è la squadra che, diciamo, ha organizzato tutti gli eventi di Trento, che adesso brevemente ve ne parlerò. Siamo 21 tra ragazzi e ragazze, circa 50%, e l'evento di oggi è organizzato principalmente da Beatrice, che è lì in prima fila, da Laura, anche lei qui in prima fila, e poi da Michela e da Rossella, che però non può essere qui oggi. Da Lia. Elisa, scusate. Gli eventi che portiamo quest'anno a Trento sono principalmente tre, oltre a quello di oggi. Uno è Capiamo la birra. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi spiegheremo, non noi ma un mastro birraio e un professore di genetica dell'Università di Trento, come il lievito può essere utilizzato, uno, per produrre la birra, e due, nella ricerca contro il cancro. Sono due realtà molto separate l'una dall'altra, sembrano così lontane, ma hanno questa cosa in comune molto interessante. E questo sarà il 7 maggio, che è un giovedì, dalle 6 alle 8 di sera, al simposio. Il secondo evento si chiama Capiamo la Scienza, si terrà mercoledì 13 maggio dalle 9 alle 11 di sera, e qui avremo anche qui un dottore e un professore dell'Università di Trento che ci parleranno di metodo scientifico e di ricerca di base, portando alcune esperienze personali e dialogando col pubblico in maniera molto informale. Il terzo evento, che è quello principale, si chiama Modifiche Geniali, sarà martedì 19 maggio al Muse, entrata gratuita chiaramente, perché non sarà dentro al Muse, sarà nella sala conferenze, sarà dalle 5 alle 7 di pomeriggio e parleremo di OGM. Avremo un biotecnologo, che sarò io in quel caso, un giurista, un dottore di biotecnologie della FEM, della Fondazione Edmund Mach, e un professore di economia, il direttore del Dipartimento di Economia. Faremo un dialogo a tutto tondo con il pubblico sull'impatto degli OGM sulla nostra società. Inoltre, se vi può interessare, qui a Trento abbiamo anche indetto questo concorso artistico letterario che si chiama L'arte di fare scienza. Ormai è già a metà, quindi avrete tempo soltanto fino all'11 maggio se siete interessati. Potete partecipare con disegni, fotografie, con racconti o con poesie. E trovate tutto su italiaperlascienza.it se siete interessati a questo. E sì, io ho concluso, quindi lascio. Questi sono i contatti, scusate. C'è l'email, ci trovate su Facebook sulla pagina nazionale e sulla pagina invece locale di Trento. Su Twitter anche qui account nazionale e account di Trento. Oppure sui siti internet, che è sempre italiaperlascienza.it. E questo è tutto, lascio la parola ad Antonio che vi spiegherà che cos'è la terapia genica e come i virus possono essere utilizzati non soltanto per causare malattie ma anche per trattarle. Grazie. Ciao a tutti, io sono Antonio, sono uno studente di dottorato che lavora all'Università di Trento e in particolare al CIBIO, il Centro per la Biologia Integrata, di cui Gabriele ha già parlato prima. E innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori dell'evento e la scuola per avermi permesso di essere qui a parlarvi di scienza. E il titolo della mia presentazione è questo, quindi Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. e spero nella prossima mezz'oretta di riuscire a far capire perché penso che il parallelismo tra questo interessante personaggio e i virus, o meglio il rapporto che i virus hanno con l'uomo, possa essere calzante. Dunque, io non so bene quale sia il vostro livello di biologia, quindi ho cercato di essere molto semplice, spero di non essere stato troppo semplice. Quello che in generale noto è che una persona che è abituata a lavorare su una certa cosa dà per scontati molti concetti, e quindi ho cercato di pensare appunto di presentare questi contenuti a una persona che non sa niente di biologia. Comunque penso che alla fine della presentazione avremo tempo eventualmente per approfondire, e anzi, visto che non siamo comunque tantissimi, forse se avete domande durante la presentazione potete anche fermarmi e cercherò appunto di chiarirle. Quindi vi presento il primo dei protagonisti della mia presentazione, cioè un virus. In particolare questo è HIV-1 e ho portato lì come esempio perché lavoro su questo virus, quindi diciamo che mi è particolarmente caro. I virus, se volessimo semplificare all'osso la questione, non sono altro che un involucro proteico, che vedete qui, quindi proteine, che circondano un genoma, quindi il genoma del virus, che è un acido nucleico, ovvero DNA o RNA. Ok? Le proteine sono necessarie perché altrimenti l'ambiente esterno, ovviamente i virus si trovano non solo nel nostro organismo ma possono anche essere nell'ambiente, andrebbe a distruggere il patrimonio genetico di questa entità, terminando la sua esistenza. Come capite, come vedete anche da questa immagine, i virus sono estremamente semplici come entità e il loro genoma è piccolo e ha pochi geni, e proprio per questa semplicità io sono costretto a parlare di entità. Perché c'è stato un dibattito che in realtà è ancora in atto sul fatto che queste entità biologiche appunto siano organismi oppure no. Quindi in ultima analisi queste siano forme di vita. Io ho un'opinione, non ve la dico, siete interessati potete andare a indagare e farvene una voi. L'altra cosa che è assolutamente essenziale sapere dei virus è che sono dei parassiti, il che vuol dire che per potersi replicare e creare copie di loro stessi hanno necessità di infettare una cellula, che può essere una cellula del nostro corpo, ma può essere una cellula di un animale o di altre forme di vita. Nonostante questa semplicità, non dobbiamo pensare che i virus siano tutti uguali, ma anzi la varietà che troviamo all'interno di queste entità biologiche è paragonabile, se non superiore, a quella che troviamo all'interno di altre specie di animali. Quindi qua ho portato come esempio qualche immagine al microscopio elettronico, quindi un microscopio che riesce a vedere diciamo particolari molto piccoli di sistemi biologici e non, di vari virus che probabilmente così non riconoscerete, ma se ve ne parlo sono sicuro che sapete chi sono. Questo qua in basso ad esempio è il virus del vaiolo, che grazie a Dio non esiste più in natura apparentemente. Questo è un coronavirus, quindi non so se qualcuno di voi si ricorda, all'inizio degli anni 2000 c'è stata un'epidemia di SARS in Estremo Oriente, questa era l'agente causante quella malattia. Questo signore qui è lui, quindi il virus dell'HIV, purtroppo l'immagine è un po' piccola, però ad esempio potete riconoscere questa struttura scura all'interno è molto simile a questa cosa qui. Questo è Ebola, quindi chiaramente... da poco appunto finito sui giornali per l'epidemia in Africa. Questa qua è ad esempio il virus dell'influenza che ogni anno starà letto almeno una settimana d'inverno, e questo è molto curioso, la sua forma sembra quasi fantascientifica, questo è un batteriofago, quindi è un virus che infetta i batteri. Questo ad esempio è interessante, quindi non dovete pensare che i virus infettano solo animali multicellulari, quindi l'uomo, un cane, un gatto, ma possono infettare anche altri microrganismi. Quindi il secondo, diciamo, protagonista di questa mia discussione è chiaramente la cellula. Una cellula, in questo caso, è il nostro organismo. Questo è un cartoon molto semplificato di come è fatta una cellula. Quello che voglio solo farvi ricordare è che chiaramente ogni cellula ha un nucleo. Dentro al nucleo sono contenute molecole di DNA, una molecola e un cromosoma, che viene molto, diciamo, fittamente impacchettata per entrare in uno spazio così piccolo. Chiaramente il genoma grosso modo identico per tutte le cellule del nostro organismo e contiene le informazioni necessarie a specificare la nostra forma in ultima analisi. Quindi le cellule vanno a formare un tessuto forma un organo e un insieme di organi forma poi l'organismo che siamo noi. Vorrei a questo punto fare un parallelismo tra il nucleo e una biblioteca. E potete poi immaginare che all'interno di questa biblioteca vi siano dei volumi, che sono i cromosomi, e all'interno di questi volumi sono scritte molte ricette, che sarebbero i geni. Siccome questi volumi sono preziosi e diciamo che il nucleo della biblioteca è un po' speciale, la cellula deve copiare queste ricette su un foglio d'appunti praticamente, una copia temporanea, e le utilizza poi per appunto cucinare le proteine. Chiaramente le proteine in ultima analisi sono l'elemento che diciamo determina come si comporta una cellula, come è fatto un organismo. Quindi se noi immaginiamo ad esempio che nel libro di ricette ci sia un errore, e questo errore ovviamente viene copiato dalla cellula sul suo foglio d'appunti e si traduce in un errore di cottura. Quindi la proteina è diversa da quella che naturalmente dovrebbe essere. Ora, una parte delle mutazioni possono anche non fare nulla, nel senso che è un piccolo errore, non so, hanno tenuto 5 minuti in più il forno acceso, non è un grosso problema. Altri errori sono invece molto importanti e alterano la funzione della proteina. Questo vuol dire, e questo di conseguenza porta a un'alterazione delle strutture che quella proteina specifica. E questo chiaramente può portare a malattie. E questi sono ad esempio degli esempi. Quindi questi sono tutti casi di mutazioni a livello genomico che portano a effetti molto grossi sull'apparenza di un organismo. Quindi abbiamo mosche con 4 ali, persone che possono nascere con più di 5 dita nelle mani o nei piedi. Abbiamo mosche senza occhi, persone di bassa statura, ad esempio. O la cosiddetta malattia del lupo mannaro, cioè persone coperte interamente di peli. Quindi anche sulla faccia sono fondamentalmente quasi appunto come un lupo mannaro. Più interessante è questo esempio qua, un pochettino più microscopico. Questa è, stiamo parlando di anemia falciforme. Quindi qui abbiamo una mutazione in un singolo punto di una proteina, l'emoglobina, che è contenuta nei globuli rossi, che sono questi qui, circolano nel nostro sangue e trasportano l'ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti. Guardate com'è interessante questo fatto, una singola mutazione in questa proteina fa sì che questa funzioni male e alteri completamente la forma di un globulo rosso. Questo globulo rosso non funziona, non trasporta l'ossigeno ed è per questo quindi che le persone affette da questa malattia sono anemiche appunto. Vorrei poi solo un attimo ricordarvi che anche i tumori, che purtroppo sono tristemente noti a tutti, non serve che leggiate solo... solo per darvi un'impressione, i tumori in realtà nascono da mutazioni, dall'accumulo di mutazioni a livello di cellule, delle cellule, e l'accumulo di queste mutazioni finisce per farle impazzire e formare chiaramente il tumore, la massa tumorale. Quindi in ultima analisi potremmo ritenere che anche i tumori siano malattie genetiche. Chiaramente non siamo nati con un tumore in generale, ma sono eventi della vita che poi ci portano ad averlo. Riguardo invece le malattie genetiche, diciamo, più classiche, quindi quelle con cui siamo nati, ho cercato un po' di informazioni riguardo a questo e la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda la diffusione di tutte le malattie genetiche a livello della nascita, quindi non quando nella popolazione adulta, ma al momento della nascita, è 1 ogni 100 nati. Ora, non so voi cosa ne pensate, 1 ogni 100 nati è un numero molto alto. Vuol dire che se questa Alemagna ha 100 posti e ci immaginassimo tutti come bambini appena nati, almeno uno qua dentro avrebbe una malattia genetica. Quindi il problema è grosso. Poi chiaramente una grossa parte di queste persone morirà molto giovane, chiaramente. L'altro punto che vorrei mettere in evidenza è che le malattie genetiche non possono essere trattate con approcci tradizionali. Con approcci tradizionali non intendo la medicina sciamanica, ma intendo semplicemente una medicina classica, quella che il medico vi può prescrivere, perché una pillola che voi prendete potrà farvi abbassare la febbre, potrà abbassare la pressione a nostro nonno, ma tutti questi approcci terapeutici curano i sintomi e permettono in ultima analisi all'organismo di ripararsi da solo. Il problema delle malattie genetiche è che l'organismo non si può riparare perché è rotto in partenza. Quindi chiaramente è molto raro che una pillola possa, diciamo, far stare bene una persona affetta da una malattia genetica. Quindi l'approccio deve completamente cambiare e da questo punto di vista noi dobbiamo pensare che il nostro paziente è sì l'organismo intero, ma il nostro intervento non avverrà a un livello molto più piccolo. Quindi quello che dobbiamo andare a curare è appunto il DNA del paziente, in modo tale da correggere o... diciamo ovviare al problema originario e far sì che la persona stia bene. E questa non è altro che la terapia genica. Quindi la terapia genica è tutto quell'insieme di terapie che si basa sul trasferimento di geni o comunque acidi nucleici o sulla correzione di difetti a livello genomico per permettere quindi alla persona di stare bene. Ora, esistono in realtà vari approcci di terapia genica, ma oggi vorrei focalizzarmi appunto su quelli basati su vettori virali. Quindi praticamente lo strumento che il ricercatore o il medico usa per fare terapia genica con vettori virali è appunto un virus. Questo è un virus come lo potremo trovare in natura, quindi chiaramente avrà un suo genoma, avrà proteine che non faranno male all'organismo, avrà proteine che faranno male all'organismo, perché chiaramente i virus possono causare malattie e sono proprio alcune delle proteine codificate, quindi le cui istruzioni sono presenti nel loro genoma, provocano appunto la malattia nei pazienti. Quindi quello che il ricercatore quindi fa tramite approcci di ingegneria genetica è modificare il genoma del vettore, del virus, scusate, creando quello che chiamiamo un vettore. Quindi è qualcosa che somiglia a un virus, ma non è un virus vero e proprio, perché avrà appunto un genoma che contiene il gene terapeutico, quindi quello che servirà a curare l'individuo, e sarà stato svuotato di tutte quelle proteine che possono essere pericolose per appunto il paziente. Quindi dovete immaginare il vettore come costituito da mattoncini Lego, se volete. Quindi praticamente abbiamo una serie di mattoncini che sono i pezzi del virus che troviamo in natura, abbiamo altri mattoncini che sono i nostri geni terapeutici, noi possiamo assemblare i mattoncini a seconda delle nostre necessità in maniera diversa, in modo da ottenere vettori diversi, vettori terapeutici diversi e curare quindi diverse malattie. È quindi chiaro, tra l'altro, che è necessaria una conoscenza estremamente profonda della biologia del virus per poterlo modificare. Quindi non è possibile prendere il primo virus che capita e cercare di modificarlo e sperare che questo non faccia assolutamente male ai pazienti. In ultima analisi, quindi, se volete fare anche qua un paragone, quello che noi stiamo facendo è sfruttare la capacità intrinseca di ciascun virus di entrare nel nostro organismo e di infettare le cellule per usarli come della sorta di proiettili magici, quindi sono dei, o comunque come un furgone per entrare in una cellula e trasferire il materiale genetico al suo interno, e questa cosa in generale fatta in altri modi è estremamente difficile da ottenere. Quindi da questo punto di vista i virus sono un ottimo strumento per questo tipo di trasporto. Ora, avendo in mano questa tecnologia, i ricercatori si possono dare a diverse attività. Una di queste è far diventare gli animali fluorescenti. Vi posso assicurare che pensate a un animale e probabilmente esisterà la versione verde di questo, e questo è sicuramente molto carino, ma quello su cui ci focalizziamo oggi appunto è la terapia genica. E in questa slide qui appunto i numeri non sono importanti, è solo per darvi una, diciamo, una impressione visiva. Vedete ad esempio qui il numero di sperimentazioni di terapia genica nel mondo a partire dall'89, in cui c'è stata la prima sperimentazione, fino al 2014. Come vedete abbiamo un bel triangolo, il che vuol dire che in grosso modo il numero di sperimentazioni tende ad aumentare. Quindi vuol dire che questo approccio terapeutico, seppur sperimentale, è ritenuto quindi all'avanguardia e si ritiene che possa appunto correggere molti dei difetti e curare molte persone affette appunto da patologie genetiche. Questi invece sono effettivamente le malattie che vengono curate tramite terapia genica, e come vedete la maggior parte sono tumori. Quindi si può anche fare terapia genica dei tumori. Per questioni di semplicità oggi non ve ne parlo, se però volete alla fine della presentazione possiamo discutere anche di quello. In ogni caso io oggi vi parlerò di malattie monogeniche, quindi malattie dovute a mutazioni in un singolo gene, che sono comunque la seconda tipo di patologia trattata tramite terapia genica. Quindi il primo esempio che vi porto sono queste due malattie qui, si chiamano X-SCID e ADA-SCID, sono due immunodeficienze gravi ereditarie, cioè praticamente i bambini che nascono con mutazioni in questi, sono due geni diversi di fatto, comunque il fenotipo è estremamente simile, quindi sono bambini privi di un sistema immunitario, il che vuol dire che sono costretti a vivere tutta la loro, in generale, breve vita all'interno di strutture sterili. Tant'è vero che questa malattia è conosciuta nei paesi anglofoni come la malattia dei Bubble Boys, Quindi sono dei bambini che vivono in questa specie di bolle di plastica per non entrare in contatto con l'ambiente esterno. Diciamo che la ADAS-Kid è stata la prima malattia in assoluto ad essere trattata con terapia genica. Eravamo ancora agli albori della tecnica e in realtà i risultati che si sono ottenuti non sono stati così eclatanti. Tuttavia nel 1999-2000 questi due signori qua, Alain Fischer e Marina Cavazzana, questa signora qui è veneta, ha studiato a Padova, hanno avviato una sperimentazione in Francia per trattare bambini malati di X-SKID. Hanno enrollato 10 bambini che praticamente non avevano altre opzioni terapeutiche di fatto, perché l'unica altra possibilità è trapiantare il midollo osseo, ma non sempre è possibile. E hanno enrollato quindi 10 bambini, li hanno trattati con i loro vettori per la terapia genica e 9 di questi bambini sono guariti. E quando dico guariti vuol dire guariti, nel senso che hanno un sistema immunitario normale, possono vivere fuori dalla loro bolla e hanno una vita normale. Il problema, e questo ci dimostra di nuovo che eravamo ancora agli albori di questa tecnologia, è che 2 anni dopo la fine della sperimentazione, quindi nel 2002, 4 dei 10 bambini trattati hanno sviluppato un tumore del sangue, chiaramente una leucemia in particolare, quindi in realtà un tumore del sistema immunitario, se vogliamo essere più specifici. Quindi chiaramente la connessione tra terapia genica e sviluppo del tumore è chiara, e anche la ricerca ha dimostrato che il problema è stato quello. Nel 2002 quindi cosa è successo? I ricercatori, cioè il mondo della ricerca e anche l'opinione pubblica è rimasta scioccata da questo parziale fallimento. Tengo comunque a precisare che dei 4 bambini, 3 sono comunque guariti dopo un trattamento antitumorale. E quello che è successo, come vedete da questa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, è stata la sospensione a tempo indeterminato di tutte le sperimentazioni di terapia genica sul territorio italiano e in realtà anche nel resto del mondo, facenti uso del vettore che i 2 ricercatori francesi avevano testato nel loro studio. Ora, vorrei solo un attimo fare quindi un appunto su questa cosa. È chiaro che questo tragico, diciamo, evento è inaspettato, peraltro, ha una forte ripercussione sull'opinione pubblica e ci ricorda chiaramente che i virus rimangono comunque degli agenti pericolosi. Tuttavia, la ricerca scientifica è anche brava a imparare dai propri errori, quindi arrestare completamente le sperimentazioni è giusto per un certo tempo, ma è anche giusto riguardare i dati che si sono ottenuti nei primi studi, cercare di capire dove si era sbagliato e correggere questo errore per poter andare avanti, perché chiaramente il beneficio, cioè il rapporto costi-benefici di questo tipo di terapia è estremamente basso, nel senso che chiaramente all'inizio ci sono dei problemi, ma come in qualsiasi scoperta innovativa, ma una volta affinata la tecnica, i benefici che ne deriveranno saranno fondamentalmente enormi. E infatti non serve aspettare molto. Arriviamo al 2013, questo signore, Luigi Naldini, che forse qualcuno di voi ha visto al penultimo Festival di Sanremo, lavora per Teleton a Milano, al San Raffaele, e ha pubblicato 2 lavori in cui il suo gruppo di ricerca ha svolto una sperimentazione clinica per queste 2 malattie con una versione, modificata, più efficiente dei vettori utilizzati dal gruppo francese. La leucodistrofia metacromatica è una malattia del sistema nervoso, fondamentalmente, che porta i bambini che sono affetti appunto dalla patologia a una progressiva perdita delle capacità motorie e a demenza. Generalmente i bambini colpiti da questa malattia non sopravvivono oltre i 5 anni, quindi capite che è una malattia grave. La sindrome di Wiskott-Aldrich è un altro tipo di immunodeficienza, quindi simile alle patologie che abbiamo visto prima, la causa è chiaramente diversa, e in generale questa immunodeficienza si associa anche a un difetto della coagulazione, quindi vuol dire che questi bambini non solo non sono in grado di combattere bene le infezioni, ma rischiano anche di morire per emorragie interne non arrestabili. Bene, il suo gruppo di ricerca ha testato questi nuovi vettori, quindi per 2 malattie diverse, non una sola, 2 malattie diverse nello stesso anno, su ovviamente un gruppo ristretto di pazienti, perché bisogna ancora capire se appunto i problemi che si erano verificati in passato si sarebbero ripetuti. Beh, quello che posso dirvi è che dopo 2 anni dalla sperimentazione questi bambini stanno bene, quindi non hanno sviluppato alcun tipo di tumore e sono guariti, o comunque la loro condizione clinica è migliorata molto. Quindi vedete che dagli errori si impara e si può alla fine giungere a una conclusione felice. E questo chiaramente ci dimostra che la terapia genica, soprattutto per alcuni tipi di patologie, può essere veramente un approccio risolutivo, cioè estremamente innovativo. Ora, io vi ho presentato due esempi, almeno parzialmente, che almeno parzialmente hanno avuto successo per trattare le malattie. Ovviamente dietro a questi esempi che hanno funzionato c'è un mare di altri ricercatori e di altre sperimentazioni cliniche che non hanno avuto un esito, diciamo, favorevole, generalmente non tanto perché hanno fatto male i pazienti, quanto più perché non riuscivano a curarli. Quindi quello che vi dico, ed è una cosa generale nel mondo della ricerca, è che bisogna appunto stare calmi e capire, analizzare i dati che si ottengono, capire dove si è sbagliato, capire dove si può migliorare e riprovare, per arrivare a fare come ha fatto Luigi Naldini e ad esempio quindi riuscire a trattare nello stesso anno due patologie diverse, entrambe mortali per i bambini che ne sono affetti. Quindi sono giunto praticamente alla conclusione e spero che a questo punto si sia capito perché ho intitolato la presentazione lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Dobbiamo infatti ricordarci che appunto i virus sono da un lato degli organismi patogeni, quindi che possono provocare malattie mortali, gravi o anche mortali nell'uomo, ma dall'altro possono essere uno strumento estremamente avanzato ed estremamente efficace per curare patologie che altrimenti non potrebbero essere curate. Ora, in realtà l'ultima slide deve ancora arrivare e se non vi fosse piaciuto come ho presentato io, lascio parlare un'altra persona, spero si senta. Ce lo può spiegare un'altra volta? Sì, perché sembra quasi che lei stia imitando il nostro figlio l'HIV. No, è una terapia genetica. Brayden ha un deficit dell'enzima DHA che provoca immunodepressione. E per ottenere l'enzima carente utilizzerò le capacità replicative di un virus molto attivo. Il virus HIV? Sì, che invece di replicarsi produrrà gli enzimi finché non si svilupperanno da soli. Vuoi iniettargli l'HIV? No, non esattamente. Nelle ultime due settimane ho lavorato geneticamente per rendere innocuo un virus HIV. Ok, l'HIV ha come un cappello, ok? È il sistema replicativo del virus che ci interessa, cioè il corpo. Ho tolto il cappello cattivo all'HIV perché indossasse quello produttore dell'enzima che ci serve. So che sembra un controsenso e fa paura, ma è la cosa migliore da fare. Noi ci fidiamo. Noi andiamo, campione. Va tutto bene? Dovrebbe dormire per tutta la notte. Oh, sogni d'oro, preti pulci. Ehi, sogna di replicare i geni. Oh, i rebrotti. Ok. Complimenti alla dottoressa che in due settimane è riuscita a creare un metodo di terapia genica. E niente, io con questo ho finito, vorrei ringraziare Michele, che è nel pubblico, che mi ha aiutato con la presentazione, e sei venuta così bene anche in merito suo. Aperto alle domande.